Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Ancora siamo in clima di vacanza per i ragazzi, quindi tante attività con loro sono un pochino ridotte ai minimi termini. Però abbiamo ancora degli impegni con televisivi, con i media, poi no, per il resto abbiamo un programma di tornare in piscina, come abbiamo detto, forse domani l'altro. Di riportarli in piscina, terribile, sì, certo. Un crimine pazzesco portarli, che no? Un sacerdote vuole aiutare gli africani, può fare il missionario, esistono fior di missioni in Africa che tentano di aiutarli nella loro terra senza portarli qua a villeggiare in alberghi, in piscine, in agriturismi a spese dello Stato italiano. A villeggiare, senza portarli qua a villeggiare, vabbè dai. Allora, Don Massimo Biancalani tira dritto, va avanti, l'avete sentito, ha fatto messa, non si tira indietro. Quelli di Forza Nuova hanno un po' sminuito, smussato gli spigoli, non erano lì per intimidire, per minacciare, ma per per vigilare, dicevano vigilare sulla effettiva dottrina di Don Massimo. Poi però lo invitano ad andare in Africa, che è un invito, come dire, levati dalle scatole. Però bisogna dire una cosa, 800 24 00 24, microfoni aperti anche questa sera, con Si può fare fino alle 20, avete due ore per dire tutto quello che volete, però bisogna dirglielo a quelli di Forza Nuova, come se la Chiesa non fosse già una delle principali agenzie, diciamo così per parlare pulito, di cooperazione nel mondo, forse addirittura la principale, forse addirittura l'unica nel mondo che fa cooperazione, che aiuta le paesi, le persone nei paesi loro. 800 24 00 24, da che parte state? Gasparri o Agnoletto? Gli sgomberi devono proseguire nei confronti di extracomunitari e italiani che facciano occupazioni illegali. Non ci devono essere trattative e le forze di polizia vanno tutelate, premiate, non punite quando affrontano chi gli tira delle bombole in testa. Prima cosa, precisiamo che parliamo di rifugiati, di persone che hanno diritto di essere qua e che hanno dei diritti stabiliti da convenzioni internazionali, che fuggono da una nazione, l'Eritrea, dove c'è una dittatura spaventosa. Oh, allora, lo ripeto, da che parte state? Dalla parte pugno duro, avanti con gli sgomberi, bene ha fatto la polizia? Oppure dalla parte di dobbiamo trovare una soluzione, trovare ospitalità a queste persone che del resto sono dei rifugiati? In effetti ci sarebbe, anche se sembra una cosa da cerchio bottisti, ci sarebbe una terza via. Fare tutte e due le cose. Cosa c'è di strano? Ma perché, scusate, è possibile, io me lo chiedo e ve lo chiedo, che l'Italia, che ha milioni di case vuote, migliaia di borghi abbandonati, beni pubblici del demanio, caserme non utilizzate, addirittura adesso si parla dei beni confiscati alla mafia da utilizzare per ospitare i migranti, ma io dico chiunque, tutti quelli che hanno bisogno, tutti quelli che hanno diritto e bisogno di una casa, italiani o stranieri che siano. Ma il dibattito si infittisce, sentite qua, Salvini e Saviano. Quando siamo al governo, chi indossa una divisa meriterà rispetto da parte di chiunque e non ci sarà il dibattito io sto col poliziotto o io sto con l'immigrato che gli tira una bombola in testa. L'immigrato e la sua bombola li metto sul primo barcone e li rispedisco in barca a remi là da dove sono arrivati e sto col poliziotto tutta la vita. Sono una minoranza della comunità di immigrati presente in Italia delinque. Basti pensare che dal 2004 al 2013 sono aumentate del 28% le denunce contro italiani, mentre le denunce contro gli stranieri sono diminuite del 6%. Le inchieste contro il narcotraffico in Italia hanno coinvolto circa 40.000 persone. 27.000 sono italiani e 9.000 sono immigrati. Tutte 40.000 le persone coinvolte in queste inchieste lavorano per gruppi mafiosi italiani. Allora, Salvini, chiaramente, chi tira la bomba del gas addosso alla polizia lo mando via, lo espello immediatamente. Saviano che dice: gli stranieri dati alla mano non delinquono più degli italiani. Poi ancora: quando andiamo al governo, tutti quelli che hanno ospitato anche un solo clandestino, anche solo guadagnandoci un euro, albergo, ristorante, cooperativa, casa privata, gli mandiamo gli accertamenti fiscali per gli ultimi 20 anni e gli facciamo sputare sangue per gli ultimi 20 anni e andiamo a vedere fino all'ultimo centesimo dove li hanno portati, perché questa è gente che lo fa per i quattrini, non perché è buona. I migranti non guadagnano 35 euro al giorno, ma solo 2,5 euro al giorno erogati dai pocket money per la sopravvivenza quotidiana. I 35 euro al giorno, o i 45 in caso di minori, sono la cifra che viene data alle cooperative che devono gestire i migranti e sono cifre che servono al cibo, all'assistenza, a pagare gli operatori e le strutture. Molto pesante su Salvini anche Oliviero Toscani. Sentite che cosa arriva a dire. Io mi ricordo che dopo la guerra si domandava ai nostri genitori, ai nostri nonni: ma non vi eravate resi conto di quello che succedeva avendo un dittatore imbecille come abbiamo avuto per 20 anni? Non vi siete resi conto che c'erano i lager, che c'era il razzismo, che c'era lo Shoah? E le madri, i padri dicevano: ma sai, era difficile capire. Adesso sta succedendo la stessa cosa, forse in modo ancora più grave, e noi siamo quelli che non stiamo capendo quello che sta succedendo. Abbiamo i Salvini che dicono le cazzate che dicono. E poi ancora, in Campania, il governatore De Luca che non accetta di farsi cucire addosso la patente di abusivo, di quello che sostiene gli abusivi, con un terremoto come quello di Ischia, così fresco. Anche se l'espressione non è elegantissima, devo dirlo, ma insomma così recente, ecco, diciamo così recente, la Campania che da un lato c'ha una legge che nell'ordine delle priorità degli abbattimenti stabilisce la possibilità addirittura che la regione possa diventare proprietaria, lo Stato, la regione proprietaria della casa abusiva per poi riaffittarla all'abusivo, un gioco in qualche modo di parole che non cambia niente. Dall'altra però De Luca non ci sta a fare la parte di quello che sta dalla parte degli abusivi e dice questo: sfido il governo a fare una legge per aumentare le pene contro gli abusivi. Per me la cosa prioritaria oggi è bloccare l'abusivismo, perché mentre parliamo si continua a fare abusivismo. E l'unico modo per bloccare è rendere effettive le pene che sulla carta ci sono ma sono basse. Se rendiamo effettivo il carcere di 3 anni per chi realizza un palazzo abusivo, l'abusivismo finisce in Italia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ecco noi il sindaco di Bari, presidente del Lanci, Antonio De Caro. Buonasera. Buonasera. Allora, l'ultima proposta, una delle ultime proposte, è questa: utilizzare i beni confiscati alle mafie per ospitare i migranti. È una delle possibilità che stanno sul tavolo del Ministero dell'Interno per affrontare la questione dell'accoglienza dei profughi. È un vero e proprio si può fare questo, perché con tante case sfitte, borghi abbandonati, beni del demanio inutilizzati, possibile che non ci siano soluzioni abitative per tutti quelli che hanno bisogno in Italia. Però, De Caro, prima, siccome questa questione è riemersa dopo lo sgombero di Piazza Indipendenza a Roma, che ha sollevato anche qualche polemica, le voglio chiedere: secondo lei si poteva fare diversamente, si poteva gestire meglio quella vicenda? Sicuramente uno sgombero di quell'entità va gestito con l'armonia tra tutti i soggetti istituzionali, dalla magistratura che ordina lo sgombero, le forze dell'ordine che lo devono eseguire, alla prefettura che coordina, la questura, il comune, ovviamente con i servizi sociali. Se c'è stato uno sgombero con l'idrante, qualcosa non ha funzionato sicuramente. Ecco, c'era anche un assessore ai servizi sociali che risultava essere in ferie, probabilmente non aveva colpa, non poteva sapere che la questura aveva deciso in quel momento, non lo sappiamo, però di fatto il comune come giudica l'operato della giunta Raggi? Non lo so, bisognerebbe aver vissuto quell'esperienza, non so che comunicazioni ci sono state. Nella mia città è successo, erano 200, però li abbiamo accompagnati con gli autobus, anche se in una tendopoli, li abbiamo divisi per etnie, le persone, c'erano anche tanti italiani, alcuni nuclei familiari sono finiti in alcuni alloggi, poi abbiamo aperto un dormitorio a bassa soglia, insomma hanno collaborato tutti, dalla magistratura che non ci ha imposto di farla nell'immediato perché altrimenti diventava un problema di ordine pubblico. Questa armonia, questo ordine, questa cooperazione tra enti a Roma lei non l'ha vista? Se si arriva a fare uno sgombero con gli idranti, non so da chi è di peso, ma sicuramente l'armonia non c'è stata, è mancato qualcosa nella comunicazione sicuramente. Adesso si dice, parole attribuite al, insomma, concetto attribuito al Ministero dell'Interno, al Viminale, a Minniti quindi in questo momento, ad ogni sgombero deve corrispondere una soluzione abitativa accettabile per le persone coinvolte, ma non dovrebbe essere così, essere stato così sempre in un paese normale, in un paese civile? Se ci sono le persone che occupano, che hanno diritto, questi, molti erano profughi quindi avevano comunque diritto di cittadinanza in Italia, non sanno dove vivere, italiani o stranieri che siano, gli idranti non possono essere l'unica soluzione. Non è una proposta di Minniti, è una legge di Minniti che l'ANCI ha condiviso, nella legge sulla sicurezza urbana, nel decreto sulla sicurezza urbana, proprio noi sindaci abbiamo chiesto di inserire la clausola che gli sgomberi si fanno dopo aver verificato attraverso la prefettura che ci siano le condizioni per un'accoglienza diversa rispetto a chi ha fatto l'occupazione. A proposito della proposta sull'utilizzo dei beni confiscati alla mafia proprio per ospitare i profughi, per esempio i migranti, lei che cosa ne pensa? I migranti non si può fare perché hanno una protezione governativa attraverso i CAS e i CARA a gestione prefettizia o comunali, sono i cosiddetti servizi SPRAR. I profughi, le persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato o il permesso di soggiorno, possono occupare immobili sequestrati alla mafia, ma noi comuni già lo facciamo, nel senso che i comuni danno già risposte all'emergenza abitativa. Ma anche in questo l'emergenza modo, abitativa non è solo di chi è uscito dal sistema di protezione prefettizio o comunale perché ha ottenuto un permesso di soggiorno e cerca un tetto sulla testa. L'emergenza abitativa è di chi ha perso l'alloggio per morosità incolpevole, perché non può pagare il mutuo, non può pagare un fitto, perché magari ha perso il posto di lavoro. L'emergenza abitativa è per i senza fissa dimora, che soprattutto nei comuni più grandi arrivano perché sanno di trovare un minimo di supporto, almeno un piatto caldo al giorno, nel senso che ci sono le mense anche gestite da associazioni, da parrocchie, magari sostenute dalle amministrazioni comunali, e poi ci sono anche coloro che non sono più migranti e hanno ottenuto un diritto di cittadinanza attraverso il permesso di soggiorno, il riconoscimento dello status di rifugiato. Ma in particolare noi cerchiamo di dare risposte a italiani d'origine, chiamiamoli così, italiani d'adozione, utilizzando anche le case sequestrate alla mafia, che non sono presenti però in tutto il paese, e devo dire che anche dove sono presenti diventa difficile utilizzarle perché c'è bisogno di un fondo per fare la ristrutturazione. Un immobile che arriva dal sequestro alla criminalità organizzata, prima di essere affidato a un nucleo familiare, ha bisogno di essere abitabile, ecco, magari in alcuni casi. Infatti questo è il punto, no? La domanda che le avrei voluto fare, cioè ci sono spesso delle difficoltà, delle lentezze burocratiche, ci sono delle sentenze definitive della magistratura che vanno attese, a volte ci vogliono anni, lo sappiamo perché... No, i beni confiscati, per fortuna, una volta che sono confiscati, non sono quelli sequestrati, sono a disposizione dell'amministrazione comunale, entrano nel patrimonio disponibile dell'amministrazione e quindi si possono usare. Il problema è che per utilizzarli ci vuole l'abitabilità, e quindi molte volte bisogna fare dei lavori sugli impianti elettrici, sull'impianto di riscaldamento, sui bagni, e sono fondi, ci vogliono fondi che i comuni non hanno, perché non possiamo aumentare la leva fiscale, né la vogliamo aumentare, sia chiaro. Non abbiamo maggiori trasferimenti quindi dallo Stato. Sono fondi che dovrebbero arrivare, secondo lei, mi sembra di capire chiaramente, dal governo, cioè dallo Stato centrale, no? Per rispondere a questa emergenza abitativa che c'è nel paese, che riguardi gli italiani o riguardi gli stranieri, in questo caso riguarda i profughi a Roma, però è più generale. Quindi questi fondi lei se li aspetta che arrivino insieme? Noi ci aspettiamo che il governo metta a disposizione dei fondi. C'è stato per un periodo il blocco degli sfratti, poi giustamente bisognava restituire ai legittimi proprietari gli immobili, e il governo ha fatto anche una legge positiva, che era quella sulla possibilità per i comuni, per gli enti locali, per dare risposta all'emergenza abitativa, di utilizzare immobili pubblici, e quindi attraverso una richiesta all'Agenzia del Demanio, l'Agenzia del Demanio mette a disposizione anche in maniera abbastanza celere immobili di proprietà statale, per esempio caserme, edifici dove non ci sono più uffici, però anche lì, ottenuto l'immobile, il comune, poi resta a carico del comune la ristrutturazione, cosa che ovviamente un comune non può fare perché la nostra spesa è bloccata da anni. Le faccio sentire quello che dice, perché lei ha toccato un tasto sul fatto che i beni confiscati alla mafia non si trovano equamente distribuiti sul territorio italiano, ma sono concentrati in alcune regioni, in particolare al sud. Quello che dice è la stessa cosa, più o meno il concetto, il sociologo Domenico De Masi, quello che potrebbe succedere. Questa faccenda dei beni della mafia è che c'è una differenza enorme di quantità di questi beni della mafia nel sud Italia e nel nord Italia. Quindi significa che se si usano soltanto i beni della mafia, gli immigrati dovranno essere tutti dislocati o in gran parte nel sud, perché è nel sud che ci sono questi beni confiscati. Quindi potrebbe essere dal suo punto di vista un rischio? Non potrebbe essere, perché uno, gli immigrati non possono andare in quegli alloggi, due, gli alloggi, gli edifici sequestrati alla mafia, gli immobili sequestrati alla mafia servono a rispondere alle esigenze abitative di quel comune, non è che possono arrivare da altri comuni o comunque dell'area metro, dell'area provinciale, della zona provincia, non è che puoi prendere persone che sono in emergenza abitativa a Torino e li porti a Reggio Calabria. Insomma, non è questo lo spirito, credo, della proposta che ci sarà fatta in questi giorni dal Viminale. Comunque, in una situazione del genere non saremmo ovviamente d'accordo. Gli immobili confiscati alla mafia vengono messi a disposizione dei comuni già oggi. Ecco, la legge prevede che devono essere assegnati fondamentalmente ad associazioni, proprio associazioni che magari si occupano di lotta non repressiva alla mafia, però contemporaneamente c'è la possibilità di andare in deroga, e quindi noi andiamo in deroga. Io per esempio su 64 immobili a disposizione, 19 li ho utilizzati per l'emergenza abitativa nella mia città. Ci abitano delle persone per 6 mesi, un anno, il tempo di risolvere i loro problemi. Quindi, non sono alloggi popolari, perché lì devo seguire ovviamente una graduatoria, sono immobili a disposizione che vengono ristrutturati. Io ho avuto la possibilità di farlo, ma non tutti i comuni hanno fondi a disposizione. Non potrebbe essere il governo a gestire il dislocamento dei profughi, per esempio, dire ci sono questi di Roma, ve li mando a Bari? Questo secondo lei non potrebbe avvenire? No, certo che no. Già abbiamo difficoltà con i migranti nel rispettare la quota di 3 migranti ogni 1000 abitanti. Diventa complicatissimo gestire pure l'emergenza abitativa di chi migrante non è più perché ha avuto un permesso di soggiorno. Senta, Minniti, con il codice di regolamentazione delle ONG, di autoregolamentazione, gli accordi con la Libia e la diminuzione degli sbarchi che c'è stata nel mese di luglio e ad agosto, si sta muovendo bene dal suo punto di vista nella gestione dell'immigrazione rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi? Sì, sta facendo un buon lavoro, noi stiamo collaborando come associazione dei sindaci, io stesso da presidente dell'associazione nazionale sono stato in Libia con lui e sono stato avantieri con lui al Viminale a incontrare i 14 sindaci libici, che più che sindaci sono dei capi tribù, però sono dei punti di riferimento. Devo dire che gli impegni che avevano preso in Libia li stanno rispettando, adesso tocca a noi dargli una mano attraverso la cooperazione europea, finanziali dei progetti che permetteranno lo sviluppo economico e sociale di quel territorio. Comunque sembra quasi che abbia avuto una specie di bacchetta magica, ha toccato i tasti giusti, ha avuto fortuna, c'è stato un calo fisiologico degli sbarchi, vuoi che lo che vuoi, i dati gli danno ragione, quindi diciamo Minniti sta crescendo come figura di importanza all'interno di questo. Potrebbe essere un candidato premier del PD domani? Questo non lo so, è sicuramente una figura autorevole del Partito Democratico. Il Partito Democratico, il candidato premier ce l'ha e si chiama Matteo Renzi, che ha vinto le primarie, poi non so cosa accadrà dopo le elezioni. Senta, per chiudere in leggerezza, la Puglia e anche la provincia di Bari in particolare è meta di super vacanze, super VIP, super top in quest'estate. Sì, abbiamo avuto Madonna e adesso Ivanka Trump domani, credo, per un matrimonio. Era attesa Ivanka Trump e quindi domani arriverà per questo famoso matrimonio. Madonna è già arrivata, ha festeggiato qui il compleanno. Brava. Invece questo matrimonio di cui parliamo si è fatta una cifra, 25 milioni di euro per realizzare questo matrimonio. Le risulta? Sì, non è la prima volta che succede nell'area metropolitana di Bari. Qualche anno fa c'è stato un matrimonio di indiani che hanno portato qui anche gli elefanti. Come no? Qua si annunciano 400 container, non ho capito bene. La regione Puglia, anche la provincia di Bari, diventa un po', come dire, la regione, il territorio, la terra col maggior trend di crescita, ecco, non in valore assoluto, ma in percentuale. Ma noi siamo dalla vostra parte, ovviamente tifiamo per il turismo in Italia, per l'Italia, per la Puglia in particolare, ma di questi 25 milioni di euro, così a spanne, no? Quanti ne resteranno in Puglia? Cioè, il guadagno vostro, diciamo, facendo i conti della serva. Però sicuramente le aziende che lavoreranno per questo matrimonio sono aziende pugliesi, non sono aziende. Lei su questo ha qualche idea, qualche garanzia, qualche certezza? No, non ne ho, però la sala ricevimenti. Perché sarebbe una beffa, no? Che venire qua a vedere questo grande evento. Serve per fare marketing attrattivo, facciamo conoscere la nostra terra a chi viene da fuori. Qualcuno andrà ad accogliere Ivanka? Qualcuno delle autorità? Lei ci andrà? No, no, non credo. Non no, ne frega no, niente né a lei no, né a Ivanka. Va bene, grazie, buona serata, De Caro. Buona serata. Ivanka credo non sappia nemmeno la mia esistenza. Grazie, buona serata al sindaco di Bari. A voi. Allora, siamo qua, 800 24 00 24, torniamo dopo la borsa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, 18 e 34 minuti, cari ascoltatori, alla luce anche di quello che ha detto il presidente dell'ANCI, sindaco di Bari, Antonio De Caro, la possibilità di utilizzare, tra l'altro, i beni confiscati alla mafia per ospitare i profughi, non i migranti, avete sentito, non si può fare, ma i profughi sì, si può fare? Vi ha convinto questa possibilità, questa ricetta? 800 24 00 24, vi aspetto anche su questo in particolare. Andiamo con Roberto che chiama da Torino. Vai Roberto. Buonasera e grazie per l'attenzione. Io penso che il governo e le forze dell'ordine debbano fare ordine. Quindi appunto, non è solo una questione di dare una collocazione a tutti gli immigrati di qualsiasi natura siano, ma è anche quella di tenerli un attimino sotto osservazione per capire se stiamo facendo entrare 4 stupratori, 2 assassini, eccetera. Ora il governo, che è contro il popolo, contro i comuni, contro tutti, dovrebbe assumersi la propria responsabilità delle proprie scelte e, a mio avviso, collocare tutti questi signori nelle caserme. Dove si potrebbe nelle caserme vuote, nelle caserme vuote, però Roberto. Nelle caserme vuote, ma presidiate da qualcuno che faccia un controllo, che gli insegni la lingua italiana, che per alcuni paesi è un requisito indispensabile per accedere alla cittadinanza successivamente, perché se non ci sono gli elementi di base vuol dire che il governo sta prendendo delle decisioni e infliggendo tutti i dolori di queste decisioni ai comuni e alla popolazione. E non sto dicendo di non accogliere, sto dicendo di accogliere i personaggi che dimostrano di potersi inserire e di avere i requisiti per farlo. È una cosa ben diversa questa. Quelli che non hanno i requisiti e vogliono necessariamente essere accolti, che se li prenda pure il Vaticano, quelli lì. perché l'Italia, come paese già molto provato dalle crisi che stiamo tuttora vivendo, non ha materialmente la possibilità di sostenere quel tipo di problemi. Va bene Roberto, grazie, grazie, buona serata. Ciao Paola da Roma, vai. Sì, no, non vorrei ripetere quello che ha detto l'ascoltatore di prima, però insomma, diciamo, dare dei contributi comunali a quello che dice Saviano, che le cooperative prendono 35 euro o 45 se sono minori, quando invece già diciamo ci sono lavori in queste, in questo tipo di cooperative, e ci sono molti tagli già solamente per le persone anziane, handicappate. È vero, è vero, è vero, sul sociale, ecco, ci sono tantissimi tagli, questo è vero. Moltissimi tagli, e quindi non vedo perché queste abitazioni che dovrebbero essere date ai migranti invece non vengano date a però famiglie. Sono due mondi diversi. Comunque, i 35 sì. euro riguardano un momento, poi dopo c'è un altro momento, nel momento nel quale tu vieni riconosciuto profugo, inizi la tua vita, inizi a giocartela nel nostro paese, però poi magari non riesci a trovare un lavoro, non riesci a trovare una casa. Cosa dobbiamo fare con queste persone, Paola? Perché questo è passo in avanti, no? Dobbiamo dircelo chiaramente. Sì, dobbiamo dircelo chiaramente. Intanto bisognerebbe cominciare, visto che il tema della casa è un tema che comunque anche prima dei migranti riguardava tantissime famiglie italiane o comunque gli stranieri che venivano. Quindi persone che anche senza fondi del comune, se gli si dà una casa, comunque possono prendere un mutuo sociale e pagarsi perfettamente benissimo con un mutuo agevolato e da soli i lavori di ristrutturazione che i comuni non sono in grado di sostenere. Primo. Secondo, se noi dobbiamo mettere queste persone all'interno di case per poi continuare comunque a pagare come governo, come Stato, come comune, comunque in prima persona tutte le persone che lavorano in Italia, per pagare queste persone che poi tranquillamente si adagiano su questa posizione. E poi normalmente Saviano dice sono 26 milioni di italiani e 9 milioni di stranieri che delinquono. Allora togliamo quei 9 milioni, già che ce ne abbiamo 26 dei nostri, perché dobbiamo assumere altri che delinquono? Perché l'ozio è il padre dei vizi. Quindi se uno non fa niente, poi alla fine qualche cosa fa e ruba, questo anche è vero, questo anche è vero. Paola, grazie, le dedico amichevolmente, no? Lo ha citato Saviano, abbiamo un altro passaggio di Saviano su questa vicenda qua. I migranti costano lo 0,2% del PIL, pari a poco più che 3 miliardi di euro, e fanno guadagnare allo Stato italiano oltre 8 miliardi di euro. La fonte non sono io, è lo Stato italiano, sono dati della finanziaria 2016. E va bene, gli immigrati fanno guadagnare 8 miliardi all'Italia, così dice Saviano. Renzo da Lucca, vai. Sì, buonasera. Io diciamo il problema sull'immigrazione lo divido in tre punti come soluzione. Il primo, che poi è un problema che riguarda anche noi italiani, ci vuole una giustizia rapida e che funzioni e con la certezza della pena. Primo, questo fa sì che nessuno viene stimolato a delinquere. Secondo, gli immigrati quando arrivano, appena mettono piede sul terreno italiano, un documento impronta digitale e devono essere riconosciuti. Luogo di nascita o di residenza, gli si dà l'Italia come è e poi così sono liberi di spostarsi, anche temporaneo. Terzo punto, vanno tassati gli stati da cui scappano, queste nazioni da dove loro scappano per la guerra, e si va a confiscare i soldi dalle loro banche e ci ripaghiamo il costo che abbiamo noi per aiutarli. E come si fa a fare queste confische però? Perché detta così sembra allettante, Sicuramente si vanno a prendere, come siamo andati a cercarli a Saddam Hussein, si vanno a toglierli anche laggiù da loro, e dove non si arriva con le buone si va con le cattive, e però bisogna far così, dove ci sono i dittatori vanno tolti di mezzo, non si può far sì che noi si diventi i buoni per qualche furbo che gira per il mondo, vanno tolti quei quattro furbi per far sì che si stia meglio tutti. Va bene, poi? E poi, come ho detto, su tre punti: uno la giustizia, uno documenti che almeno questi con impronte digitali, se si muovono, si sa chi sono, e quello di recapitare il denaro dai luoghi dove scappano. Va bene, questa è la tua ricetta. Grazie, grazie Renzo. Prego. Buona serata, grazie. Andiamo con Andrea che chiama da Roma. Io vorrei sapere anche proprio su questa questione dei beni confiscati alla mafia, perché sono un qualche cosa che, come dire, che è a disposizione per essere utilizzato come, come attività economica, per far ripartire anche l'economia delle zone colpite dalla mafia, però possono essere anche utilizzati diversamente, per esempio come soluzione abitativa per chi ha bisogno. Io ripeto, però, italiani o stranieri che siano in condizioni di bisogno, che possono dimostrare di non essere in grado di pagarsi un alloggio e che però hanno il diritto comunque di stare in questo paese. Andrea, vai. Sì, buonasera. Due precisazioni. Una per quanto riguarda De Masi. Non è vero che gli immobili sono distribuiti soltanto nel sud Italia, assolutamente. Cioè, penso la terza città in Italia con più beni è Milano, secondo o terzo. E poi un'altra cosa invece su i costi. Vale a dire, quando il comune prende in carico il bene, paga tutti gli interessi bancari dei mutui che sono ancora attivi. Quindi bisogna, secondo me, tenere ben presente questo aspetto, che andrebbe regolamentato nella proposta, altrimenti diventa un boomerang enorme per il comune. E un altro tema invece importante è gli strumenti finanziari. Ci sono i social impact bond, che sono degli strumenti finanziari partecipativi, che in Italia non vengono utilizzati. E come, di cosa si tratta, scusa Andrea? Sono strumenti partecipativi, sì. Vale a dire, investono anche i singoli cittadini per risolvere dei problemi, quindi non c'è sempre bisogno dello Stato, c'è anche la possibilità di investire direttamente. Questi strumenti vanno a questo punto, vista la finanza pubblica e l'impossibilità di fare nuovo deficit, vanno fortemente stimolati. Quindi servirebbe subito un'agenzia che in qualche modo li promuovesse, perché noi potremmo addirittura avere dei rendimenti da una soluzione nei confronti dei migranti. Quindi questa cosa mi sembra paradossale, aspettare lo Stato che non ha risorse, quando di fatto potrebbero essere cittadini ad investire nella soluzione e a guadagnarci, semplicemente mettendo in atto degli strumenti finanziari che esistono in Inghilterra, per esempio, o in altri paesi europei evoluti. Cioè tipo il microcredito, io ti presto è tipo un'obbligazione. Io faccio un'obbligazione, sì, finalizzata a realizzare un progetto. Un progetto. Poi, quindi, se il progetto va bene, c'è anche un guadagno e allora poi, esatto, si socializzano, esatto, per così dire, anche, esatto, anche i guadagni. Sono strumenti efficacissimi, sì, sono sviluppati, non sono cose nuove, hanno una lunga storia anche in Europa. Non si riescono a sviluppare in Italia. C'è però un devo dire, Andrea, che è una cosa un po' complessa, però ha il merito di essere almeno una proposta, finalmente una proposta che magari qualcuno avrà già vagliato, approfondito, si può fare, non si può fare, però almeno io personalmente ti ringrazio, perché ogni tanto una proposta fa comodo, no? Da valutare, Andrea. Grazie, buona serata. Andiamo con Walter da Pavia, vai. Sì, buonasera. Sì. Senta, volevo solo fare una piccola osservazione in merito a quell'episodio sgradevole o comunque mal gestito dello sgombero dei profughi. Sì. Al di là del fatto appunto che la situazione è stata gestita probabilmente molto male, dico probabilmente perché non ero in Italia, per quelle notizie le ho avute di seconda mano. Quello che però mi lascia perplesso è il fatto che questi profughi pensino di essere in diritto e di avere una casa. Il fatto che abbiano lo stato di profugo non li arroga tu curi il diritto di avere una casa. Avere una casa è subordinato a tante altre cose, primo fra tutti dove sei nato, chi sei, cosa hai fatto per guadagnartela, eccetera. È una riflessione che faccio spesso tra me e me. Niente, volevo semplicemente condividere. Sì, però Walter, bisogna chiarirsi su una cosa. Profugo è una parola dietro la quale c'è un concetto, che è quello di una protezione che viene riconosciuta a una piccola parte dei migranti perché vengono a zone di guerra, perché c'è un diritto internazionale, eccetera, eccetera. Poi c'è la questione dell'Europa, la mancata ripartizione dei profughi, abbiamo mille problemi. Giusto, benissimo. Detto questo, un italiano o un profugo, mettiamola così, che non è in condizione di garantirsi un alloggio, cosa deve fare in questo paese? Cioè, cosa deve fare? Esiste la possibilità di dare una risposta? Normalmente si danno delle risposte. Sia all'Italia che deve dare. Esatto, esatto. Quello che non va bene è che si creino delle occupazioni abusive come quella di Roma, certo, dove centinaia di persone, quasi tutti profughi, stavano lì in una condizione di illegalità. Quello andava smantellato. Però lei pensa che era possibile andare lì, smantellare con gli idranti e basta, senza proporre nient'altro a quelle persone? No, assolutamente no. Come le dico, non ho avuto notizie di prima mano perché non avevo la possibilità di avere accesso diretto. Però quello che mi fa specie, appunto, al di là del fatto che è stata gestita male, sì, non è giusto però dare per scontato che abbiano comunque diritto a... Perché il diritto, ripeto, uno va, che poi dopo lo stato di profugo prevede a livello internazionale anche la garanzia di un'abitazione, questo non lo so, me lo dica lei se è così. Però se così fosse, allora conviene che tutti gli italiani che hanno bisogno di una casa chiedano lo stato di profugo, almeno hanno almeno quella certezza. Guardi che le persone italiane che non riescono ad avere una casa, ci sono gli alloggi popolari, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di alloggi popolari. Ci sono persone che dormono nei dormitori della Caritas o delle altre associazioni o del comune. Questo è purtroppo la realtà italiana, dell'Italia fatta di italiani e anche sempre di più di molti stranieri. Comunque grazie Walter, buona serata, sentiamo gli ascoltatori cosa hanno colto dopo il traffico di quello che avete detto fino ad ora. Vai. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In their eyes is the place that you find. You discover that you love it here. You've got to stay on this rock, not a rock. An island on which you found a love it. Then you twitch, you feel that itch in your petticoat. Your pretty, pretty petticoat. Allora, è accaduto qualche due sere fa, due ragazzi di 26 anni polacchi, una coppia sorpresi da quattro persone, forse stranieri, sicuramente forse nordafricani, li hanno aggrediti in spiaggia. Lui ha avuto delle violente lesioni, lei è stata violentata. Ora a Rimini è caccia all'uomo. È con noi Mauro Vanni, presidente dell'associazione operatori di spiaggia di Rimini Sud, titolare di alcuni stabilimenti balneari. Buonasera Vanni. Buonasera, buonasera a voi. Allora, intanto non ci sono novità sul fronte della ricerca, non so se lei è aggiornato, credo di no. No, non ci sono novità, anche se ormai i sospetti sono circoscritti ad alcuni soggetti che erano già noti alle forze dell'ordine, continua la caccia, li stanno ormai accerchiando, cercando di tagliargli tutti le vie di fuga, gli accessi a rifugi eventuali. Speriamo che li prendano presto. Volevo solo fare una correzione, sì, perché dica. È stato anche aggredito e violentato un transessuale. Sì, è vero, quindi è vero, le vittime sono tre, sono tre, assolutamente. Come è potuta accadere una cosa del genere? Ve lo sarete chiesti, insomma, in un posto così tanto, tanto frequentato da tanta gente a tutte le ore del giorno e della notte? È stato un evento eccezionale che non appartiene alla quotidianità riminese. Cioè, questi quattro pazzi furiosi si sono avventati prima contro questa coppia di turisti polacchi e 20 minuti dopo, attraversando a piedi la città sulla statale con questo povero transessuale inerme, e con una violenza inaudita e una cattiveria che non si giustifica in nessun modo. Impossibile prevedere una situazione di questo genere in un orario, fra l'altro, alle 3 alle 4 della mattina, quindi con non tanto movimento sulle strade, anche sulla spiaggia, e quindi è stata una casualità che questi quattro delinquenti hanno incontrato questa coppia. Però lei dice è impossibile, un evento impossibile da prevedere, ma però come mai invece quasi tutti gli stabilimenti hanno delle guardie notturne, credo anche quello del 130, se non che forse quella sera non c'era in quel momento lì, per questione di orario, credo. Comunque, non abbiamo delle guardie notturne, ma abbiamo del personale che fa il rimessaggio, la manutenzione, il riordino della spiaggia durante le ore notturne, quindi non hanno nessun potere di controllo, di veto e di ordine pubblico e sicurezza. Chiaramente se vedono delle situazioni di pericolo intervengono come ogni cittadino o segnalano alle forze dell'ordine. il frangente in quell'orario lì il dipendente non c'era perché era un orario fuori orario, e questo ha aggravato la situazione, ma bastava che ci fosse anche un'altra coppia che per caso passasse di lì e già forse si riusciva ad evitare il peggio. Forse, purtroppo bisogna capire anche quanto erano determinate quelle quattro persone. Ma secondo, sì. Ho letto anche qualche commento, qualcuno che dice forse hanno sbagliato ad avventurarsi nel cuore della notte lungo la spiaggia. Possibile anche una valutazione di questo tipo? Non erano avventurati nella spiaggia, ma stavano camminando fra il lungomare. Sì, in una passerella interna rispetto alla principale. Che è anche illuminata. E poi dopo sono stati portati a riva e lì sulla battigia, dove non c'è illuminazione, dove insomma è più facile nascondersi, sono stati aggrediti e malmenati. Ma ripeto, uno quando va in vacanza normalmente abbassa il livello di guardia, e quando siamo nel nostro quotidiano, in una città, in una metropoli che potrebbe essere paragonabile alle presenze che ci sono a Rimini, perché Rimini in realtà d'estate diventa una metropoli. Ma lei lo definirebbe un posto sicuro, Rimini, la riviera? Ma molto sicuro. Gli atti di microcriminalità si sono abbassati tantissimo, tutte le statistiche lo dicono, la presenza delle forze dell'ordine sia sulla spiaggia ma anche in città è costante. Però non la notte, evidentemente, non abbastanza. Cioè, stiamo parlando della spiaggia di un territorio di 15 chilometri di estensione per 200, anche 300 metri di profondità, quindi parliamo di chilometri quadrati. Quindi è impossibile, cioè, secondo lei, controllare tutto, non è proprio possibile. Cioè, non è umanamente ragionevole prevedere una forza dell'ordine così costante, puntuale, per prevenire atti di questo genere che non sono la normalità. Cioè, non succede mai niente. Centinaia di persone trascorrono la serata in spiaggia la sera e non succede mai niente. Cioè, può succedere che l'atto di microcriminalità, che può essere il portafoglio, ma questo non, mai niente di una rilevanza di questo genere. Quindi era imprevedibile. Tant'è vero che la violenza con cui questi si sono espressi dà la misura di quanto fosse fuori dal comune un'aggressione di questo genere, insomma, non si poteva assolutamente prevedere. E se fossero quattro stranieri, come sembra, quattro stranieri, andrebbero espulsi, secondo lei, subito dall'Italia? Ma io non sta a me giudicare questa situazione. Che siano stranieri o che siano italiani, o di qualunque nazionalità, questi sono dei passi criminali che vanno comunque messi in sicurezza per il bene della comunità. Poi ci sono le leggi italiane che determinano se va espulso o non espulso, e non sta a me dare pareri in questi termini, perché tra l'altro non sappiamo bene ancora neanche di chi si tratta, quindi stiamo fantasticando e coi se e coi ma non si va da nessuna parte. Quello che io mi sento di dire è che con questo gesto non hanno violentato solamente dei turisti, i nostri ospiti e questo transessuale, ma hanno violentato una comunità che si è sentita ferita profondamente e si stringe tutta attorno a questi poveri disgraziati, cercando di entrare in empatia con un dolore che è anche nostro. È chiaro che la ferita più grossa ce l'hanno loro, ma qui Rimini tutta è stata ferita, perché non ci appartiene. Questa non è Rimini, cioè non è il nostro quotidiano. Il quotidiano di Rimini è il divertimento, la serenità. Certo, lo sappiamo, questo sicuramente sì. È un fatto questo molto grave che però scuote naturalmente tutti. Io ringrazio Mauro Vanni, e tra l'altro ci sono due piccole perle che si aggiungono, perle di rara bestialità, che sono queste. Un mediatore culturale ha scritto su una pagina del Carlino questo commento: lo stupro è peggio, ma solo all'inizio, poi la donna diventa calma ed è un rapporto normale. Una cosa incredibile, abominevole. Abid G, 24 anni, la cooperativa per cui lavora fa il mediatore culturale con i migranti, questo signore qua. La cooperativa ha detto che se fosse tutto confermato probabilmente lo licenzierebbe. Dall'altra parte un esponente a San Giovanni Rotondo, alleato di Salvini, dice: ma alla Boldrini e alle donne del PD quando dovrà succedere, riferendosi alle violenze? Aiutatemi, aiutiamoci a uscire dal morbo della demenza che ci sta attanagliando pesantissimamente. Chiamate 800 24 00 24, avremmo bisogno di voi, di qualcosa di intelligente, di diverso da dire a queste persone. Dopo. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Dal 4 settembre vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, da lunedì 4 settembre, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Quando mai c'è una forza politica entra in chiesa per intimidire, perché questa è un'azione di intimidazione, ma neanche durante il fascismo e il nazismo succede una cosa di questo genere. Vigile significa proprio questo, essere attenti, che tra l'altro è anche un dovere di un buon cattolico, ecco, per verificare se effettivamente a livello dottrinario questo prete c'è o non c'è. Hanno provato a farmi litigare col Santo Padre, ma io non sono litigioso. Io chi sono per polemizzare col Santo Padre? Semplicemente ho sottolineato che in Italia, con 4 milioni di poveri e 4 milioni di disoccupati, non c'è spazio per tutti, non c'è posto per tutti. E se qualcuno vuole regalare le cittadinanze, cominci dal Vaticano, che ha un sacco di soldi e un sacco di palazzi. Allora, dopo Don Massimo Biancalani, che avete sentito da Pistoia domenica nella sua chiesa, c'è stato un gruppo di Forza Nuova che è entrato a vigilare sulla dottrina di Don Massimo, che ha portato, lo ricorderete, i profughi in piscina. C'è un altro prete protagonista di uno scontro, insomma, che ha ingaggiato una battaglia con la destra, con i movimenti di destra. In questo caso è Don Franco De Donno da Ostia. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Buonasera Don. Allora, prima di arrivare a lei, ha sentito la vicenda di Don Massimo, cosa ne pensa di questi che sono entrati in chiesa per vigilare sulla dottrina di Don Massimo? Un'intimidazione, una cosa da fascisti, come ha detto Don Massimo? Ma diciamo fuori luogo, diciamo che è una cosa che non riflette sulla... realtà del vito, diciamo, che si svolge stando in chiesa. Ecco, noi quando facciamo l'omelia, è un'omelia basata sulla spiegazione del Vangelo, quindi direttamente applichiamo il Vangelo di quella domenica alla situazione reale che viviamo ogni giorno. Ma secondo lei anche Don Massimo fa questa cosa? Cioè lui, la questione scatenante è stata il fatto che ha accompagnato questi profughi in piscina, ha postato una foto sul suo profilo social scrivendo loro sono la mia patria, non i fascisti che non sono la mia patria. Sì. Probabilmente i toni sono un pochino troppo divisori, diciamo. Ecco, anche quello che è stato detto prima di me. Non è vero che io ingaggio battaglie contro la destra, eccetera. Non ho motivo. Diciamo che c'è Casa Pound che ce l'ha con lei. Sono loro, sì, sono loro, ma non io. Perché ce l'hanno con lei, Don? Perché Don per loro, falsamente, chiaramente, perché la cosa è dai fatti è rilevata. Penso solo agli immigrati. Non posso, come responsabile della Caritas, pensare solo agli immigrati, ma penso alle persone che si trovano in situazione di bisogno indipendentemente dal fatto che siano immigrati o meno, che siano di colore, della pelle di color nero o di color bianco, è il bisogno che le persone manifestano e soprattutto la relazione diretta, guardandole il volto, sentendo le loro voci e asciugando le loro lacrime, le quali lacrime non hanno colori e distinzioni tra immigrati e italiani, e si fa l'intervento. Oltretutto nei nostri registri dei centri d'ascolto, che sono tutti verbalizzati, i 2/3 che persone che noi aiutiamo sono italiane. Quelli che vanno alla mensa Caritas qui a Ostia, centri d'ascolto della Caritas, io ho fatto il servizio civile alla Caritas di Bologna tanti anni fa, e lì avevamo un centro d'ascolto per italiani e uno per stranieri, giusto? Ma quello non si fa più, non chiaramente. Ce n'è uno solo. No, uno solo, perché quella sarebbe veramente una discriminazione. Ma era così, però, lo so. Io all'inizio anch'io mi sono trovato in questa situazione. Ma erano altri anni, era perché c'erano altri problemi anni. Specifici per quanto problemi riguarda gli stranieri sui documenti. Però poi documenti. Alla fine si è avvertita che la cosa, diciamo, non andava bene, diciamo, come quindi come i tre quarti delle persone assistite dalla Caritas di Ostia, per esempio, sono italiani. Sono italiani, manca la mensa, ma noi abbiamo tutto registrato, per cui quello che diciamo è ciò che riguarda la verità di fatto, ecco. Mentre invece dall'altra parte si dice ciò che non riguarda la verità di fatto, ma soltanto un'opinione ideologica legata appunto a un sistema, un'ideologia. Cioè che non vadano aiutati gli immigrati, ma soltanto gli italiani. Quindi io sarò contro di loro, perché secondo loro aiuto solo gli immigrati. Ma questo chiaramente è falso, perché non è proprio possibile. Nello spirito, diciamo, della Caritas che rappresento, non è possibile che io possa fare distinzione e neanche che possa dire solo gli immigrati. No, assolutamente no. Ma poi la gente qui a Ostia lo sa benissimo, ecco, che le nostre Caritas sono frequentatissime purtroppo da persone che stanno vivendo la crisi economica di questo momento. Italiani che stanno vivendo la perdita del posto di lavoro, italiani che stanno perdendo addirittura anche la casa perché non hanno più i soldi, mancando il lavoro, per pagare l'affitto. Sì. Sono tutte situazioni. Però anche lei c'è un fatto scatenante, no? Che è stato quando ha portato al mare un'80ina di migranti. Anche lì falso, anche quello è falso. Allora, quella situazione è capitata nei 4 giorni del Social Days, che 40-50 associazioni, soprattutto di giovani, abbiamo fatto come festa del volontariato lidense, e nell'ambito del fatto che stavamo al Curvone, quindi una piazza aperta, sono venuti i rifugiati accolti dal comune di Fiumicino, in una casa che il comune di Fiumicino ha messo a loro disposizione, la Casa del Sole mi sembra che si chiama, e sono venuti a partecipare alla festa. Poi chiaramente davanti al Curvone c'è il mare. E siete andati al mare? Sono andati al mare, come sono andati al mare anche tutti gli altri. Non è che noi abbiamo fatto un'operazione precisa, apposta, perché queste persone in gruppo andassero al mare. No, sono persone come tutte le altre. Però questa cosa è stata estrapolata e gli è stata rinfacciata poi? Certo, perché è stata rinfacciata secondo i dettami di un'ideologia, di una che non corrisponde chiaramente agli intenti e alla realtà del fatto. Ma questa non è la prima volta. Diciamo che è un sistema ed è un metodo diciamo continuativo di appiccicare, diciamo, queste accuse che non sono esatte, non sono vere, per portare avanti un'ideologia di separazione. Ma lei come la chiama? Ideologia razzista, perché non vogliono che vengano aiutati gli stranieri? Io la devo chiamare ideologia razzista, se non anche fascista, la devo chiamare così. Ecco, ma a livello diciamo non tanto delle persone di Casa Pound, nel quale ci stanno tanti ragazzi che hanno fatto l'oratorio, hanno fatto con me l'ora di religione al liceo La Briola di Ostia, e che si trovano, diciamo, purtroppo presi da questa rete, quanto per il come si dice il sistema di Casa Pound a livello proprio sistematico, più che a livello delle singole persone, che poi se soprattutto sono ragazzi, chiaramente da me sono amati e sono mantenuti, diciamo, nella, sì. Senta, però, nel mio pensiero. Don Franco De Donno, l'altra cosa che si dice è che alcuni di voi preti, diciamo, impegnati nel sociale, in realtà volete poi fate più politica che cura delle anime. Ora, fra l'altro, lei si sta per candidare alle municipali. Sì, quindi è proprio il massimo. Perché si candida? Mi candido perché per i 25 anni di impegno di responsabile della Caritas, conoscenza di problemi del territorio, persone che mi conoscono, eccetera, per la mancanza di ogni punto di riferimento sul territorio da 2 anni a questa parte, perché il commissariamento ha badato soprattutto all'aspetto legale, ma non a quello sociale, che è stato completamente abbandonato, per lo sfacelo dei partiti, vero, che stanno dando una dimostrazione veramente poco credibile. Come si candida? Con chi si candida? Con che lista si candida? Chiedono gli ascoltatori via SMS. Mi candido con la lista civica non partitica, strettamente non partitica, trasparentemente non partitica, chiamata Laboratorio Civico 10. Ecco, dove la caratteristica fondamentale è il laboratorio, vuol dire che noi baderemo molto alla partecipazione delle realtà territoriali, sì, perché insieme possiamo condurre un rinnovamento, un'innovazione sul territorio. Si candida da solo o intende poi legarsi a qualcuno, apparentarsi a qualcuno? No, noi ci candidiamo da soli, perché siamo appunto non partitici e ci teniamo tanto. Poi accadrà probabilmente, come stiamo vedendo un pochino qualche barlume, che qualche lista si presenterà in apparentamento con noi, ma devono togliere qualsiasi riferimento di logo a ogni partito, cioè le liste civiche che eventualmente si apparenteranno con noi non devono avere minimamente il simbolo del partito, devono essere liste civiche con un logo, ma che non sia del partito. Senta, le leggo 2 messaggi che sono arrivati. Un prete non si dovrebbe candidare, se no torniamo ai vescovi Conti del Medioevo. E poi migranti strumentalizzati per fini politici. Sì. Questo chiaramente dipende da chi non abita Ostia, da chi non mi conosce. E tutte le persone che abitano Ostia e mi conoscono considerano questa mia candidatura come una provvidenza, alla quale io chiaramente mi sacrifico, perché non ho nessun interesse dal punto di vista personale di fare questo, in quanto in parrocchia da 36 anni, nella parrocchia di Santa Monica, fervono tante attività che ho iniziato e che sto portando avanti, per cui questo per me è un sacrificio fatto come atto di amore, per una missione seconda, per una chiamata seconda rispetto alla prima. Però dovrà sospendersi, spretarsi l'attività, forse no. Non spretarsi, perché io rimango nella mia identità, vengo sospeso nell'attività sacerdotale, quindi nei sacramenti. Quindi andrà in giro ancora con l'abito? Io non ho mai portato l'abito, io sono un prete di strada, non ho mai portato abito, sono sempre in borghese, ma questa è una cosa naturale che conoscono tutti, sono prete di strada io. Senta, però un'altra cosa, un'altra critica che viene fatta, no, alla posizione della Chiesa e di voi preti che siete impegnati in prima linea, lei ha detto io aiuto 3/4 delle persone che aiuto sono italiani, poi ci sono anche gli stranieri, aiutiamo tutti, però tutti, viene detto l'accoglienza come valore va bene, per esempio è un ritornello di Salvini che dice il Papa va bene, si occupa delle coscienze, però la politica deve dare risposte concrete alle persone. E allora in un paese come l'Italia, dove ci sono i pensionati al minimo, i disoccupati, le famiglie senza casa, non c'è, gliel'ho fatto sentire poco fa, posto anche per gli immigrati. Lei che adesso si candiderà tra l'altro in un ruolo politico, che cosa risponde a questo? Rispondo che bisogna seguire la giustizia sociale, la Costituzione italiana, le regole e le leggi che ci sono, e mettersi tutti in fila di prenotazione, mettersi in fila senza privilegi, senza far passare avanti gli immigrati, non devono passare avanti, devono mettersi in fila secondo la giustizia sociale, le regole e la Costituzione italiana. Questo è il mio pensiero. Va bene, grazie Don Franco, grazie, buonasera. Va grazie. Bene. Va arrivederci, bene. Ha risposto, grazie. 800240024, andiamo con un paio di ascoltatori prima della borsa. Guido da Milano, benvenuto, vai. Sì, buonasera, buonasera Guido da Milano. Vai. Allora, sui fatti di Rimini volevo intervenire. Io frequento Rimini da tanti anni, una città che amo molto, fin dagli anni 80, Camping d'Italia, si andava sempre sulla spiaggia e c'era da temere del padrone dello stabilimento quell'epoca, se andavi con gli amici. Ecco, è un po' un dispiacere che non ci sia più questa tranquillità e si spera che ci sia, insomma, una riconduzione a un certo ordine, no? Che il nostro Stato intervenga. È uno stato di diritto. Semmai in quegli anni lì, Guido, c'era più il fenomeno della vita notturna, le discoteche, la questione delle droghe poteva essere come sfondo, no? Come sì, preoccupazione certo. Massima della vita. Ecco, tieni conto che la spiaggia era il luogo della chitarra e della poesia o dei baci, no? Quindi si cercava quello nel contatto col mare, nel profumo, eccetera. Poi volevo suggerire solo una cosa, io sono un naturalista zoologo, molto spesso si parla di bestialità. Le bestie non fanno queste cose e purtroppo bisogna dire che è solo l'uomo che mette in campo certi comportamenti e insomma, per cui suggerisco solo di usare questo termine con molta attenzione, perché accanirsi così non è un affare da animali. Va bene, va bene, grazie Guido. Damiano da Potenza, vai. Buonasera, salve, sono Damiano da Viggiano. Sì. Volevo intervenire relativamente all'episodio del reverendo Biancalani. Sì. A me ha dato l'impressione di aver superato sia il solco sia la misura il reverendo, con tutto il rispetto, insomma, di quello che può essere la sua capacità sacerdotale e quant'altro. In che modo, Damiano? Stavo dicendo, insomma, nel momento in cui vai a postare su Facebook, sono testuali cose, si possono verificare, non è che sono cose che mi sto inventando io, e non sono né vicino a Forza Nuova né a Salvini. Sì. Come premessa, questa è la mia famiglia, testuali, io sono contro i razzisti e contro i fascisti, cioè non, con la foto di quei ragazzi che stavano nella piscina e si stavano divertendo e rilassando, cioè mi sembra un paradosso, mi sembra un po' una provocazione oltremodo in misura, pure io che non sono, diciamo. Ma dov'è la provocazione? Perché qui intendiamoci, ci può essere, diciamo, un eccesso di pubblicità in una iniziativa postata con le foto sui social, che se non lo avesse fatto non si sarebbe accorto di niente nessuno, probabilmente non avrebbe detto niente nessuno. Ma dove sta l'eccesso? Nella foto o nella frase La mia patria sono loro? Esatto, però in quelle parole, cioè la mia patria sono loro, io sono contro i razzisti e contro i fascisti. Ma perché un prete che dice che è contro i razzisti fa qualcosa di non cristiano? Ma innanzitutto dovrebbe, qua non si parla se è cristiano o non cristiano, sto parlando del fatto di superare un pochettino i limiti della sua vocazione, della sua chiamata, anche perché poi dovrebbe essere anche il prete dei fascisti e dovrebbe essere pure il prete dei razzisti, se è un buon prete. Quindi questo non fa nient'altro che avvalorare quello che stavo dicendo prima. La provocazione eccessiva da parte sua è stata quella di prendere parte in un mondo manicheo, in un mondo diviso a due, in cui da una parte ci stanno i buoni, che sono determinate persone, da parte ci stanno i cattivi, nel caso specifico da una parte ci stanno i fascisti. Cioè non doveva schierarsi, doveva fare quello che fa, se lo vuol fare, fare del bene in un modo o nell'altro, ma non schierarsi, non entrare nella disputa. Ma è inutile che vai, a sventolare il drappo rosso, in questo caso è proprio un drappo rosso davanti al toro che non aspetta altro di fare. Questo è vero. Il toro è Salvini, non aspetta altro, tac, ci si butta sopra. Polemica. Ma non sono prove Salvini, ribadisco pure io che non sono legato né a Prodi, cioè né a Salvini e né a Forza Nuova come discorso. Cioè, vedendo una cosa, Salvini, perché è stato lui ad utilizzarla per prima fini politici. Ma non solo lui, cioè proprio ha colpito il senso critico delle persone. Io ho mia figlia mica la posso mandare in piscina così, se non, cioè mia figlia va in piscina e va pure al mare, insomma, come non la come puoi mandare in piscina così, in che senso? Cioè nel senso che non sempre magari ho la possibilità e qualcuno che mi porta mia figlia in piscina. Se mia figlia in piscina non ci va perché non paga, automaticamente mia figlia non può andare in piscina. Cioè c'è una prevaricazione innanzitutto nel concetto, in questo buonismo di fondo e diffuso, ci porta pure noi genitori a diventare razzisti. Sì. Perché ci porta a diventare razzisti? 5 euro costa l'ingresso in piscina, e Don Massimo ha detto che poi ci ha portato. Mia figlia ne spende 5, 10, ne spende 15 perché lavora, sì. Ragazzo, beh, prende 800 euro al mese, che è una miseria. Comunque prende 800 euro al mese la ragazza e va a lavorare tranquillamente, e quindi va in piscina e va ovunque abbia intenzione di andare. Va bene, Damiano, devo dare la linea alla borsa. Grazie, buona serata. Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta fino alle 20. C'è ancora tempo per intervenire all'800 24 00 24. Chi abbiamo in linea? Aspetta che mi apro la videada. Sandro da Pistoia, vai. Pronto, buongiorno, buonasera Maurizio. Eccolo. Io sono un parrocchiano di Vicofaro, di Don Biancalani. La parrocchia della discordia. La parrocchia della discordia, mi sono fatto il catechismo in quella parrocchia, mi occupo dell'azione cattolica, insomma vivo la parrocchia, sì, sì. Eccetera. Allora, io non sono stato alla messa domenica, non ci sono andato, alcuni parrocchiani mi hanno fatto notare, ma perché proprio tu con quello che rappresenti non sei andato? E io non sono andato perché non è... secondo me è opportuno avallare queste polemiche sterili basate sul nulla che Don Biancalani si crea d'arte con i social network. Non è la prima volta che lo fa, l'aveva già fatto con i musulmani che dovevano pregare in chiesa, io ero alla messa subito alla cosa, era una polemica nata dal nulla. Lui, una volta che le... Cioè Don Massimo genera, cerca pubblicità, cerca troppa pubblicità. Cerca il clamore perché invece di ridimensionare la polemica quando nasce, perché l'imbecille lo trovi sempre sui social network, invece di ridimensionare, di far cadere la polemica, la alimenta e quindi va sui giornali. Ma perché secondo te Sandro fa così? Perché è in cerca di notorietà per lui o per qualche per altra lui, questione? Per lui, perché questa polemica qua non ha fatto bene all'accoglienza, non ha fatto bene a quei ragazzi. Io per l'accoglienza la sostengo, l'ho sostenuta economicamente, sostengo le iniziative che fa, eccetera, ma quello che lui ottiene è che i parrocchiani, ce ne saranno stati 10 a quella messa di parrocchiani, perché in parrocchia non ci va più nessuno, perché lui non si occupa delle persone. Sì, ok, se sei nero, rom, omosessuale, allora sì, ma altrimenti non prende in considerazione nessuno. Lui ha disintegrato una comunità. Addirittura ha disintegrato la comunità. Disintegrato una comunità, ci posso... Comunque ti devo dire, Sandro, che quando abbiamo intervistato Don Massimo, la settimana scorsa, la prima domanda che gli ho fatto è: volevi fare incavolare Salvini? Perché il sospetto era forte che sapesse esattamente quello che sarebbe potuto succedere. Salvini non lo so, però lui sapeva esattamente, perché portare quei ragazzi in piscina e pubblicare la foto su Facebook è una cosa normale, bella, carina. Aggiungerci quella frase, c'è l'intento di provocare il polverone. Pure il La foto andava bene, aspetta, perché qua c'è una distinzione che non ho colto. La foto andava bene, la foto con i profughi in piscina, ma non la didascalia. Cioè... Esatto, perché io posso, ragazzi, in piscina faccio vedere che questi ragazzi fanno. Cioè, è una cosa la frase normale, era questa. Scusa, Sandro, la frase la dico io perché ce l'ho qua scritta davanti. Loro sono la mia patria, i razzisti e i fascisti, i miei nemici. Questo è sbagliato, secondo non te. Non è una frase evangelica, onestamente. Perché è una maldestra parafrasi di una frase di Don Milani che era tutt'altra cosa. Qual era la frase di Don Milani? Era un pochino più complessa, ma sostanzialmente diceva che gli oppressi sono la sua patria, gli altri i suoi stranieri. È un po' diverso, le parole hanno peso, bisogna saperle usare. E questo Massimo usa quelle adatte per creare il polverone. Un'altra cosa, il vescovo che non è stato presente ha mandato il vicario. Questa è una cosa, poteva venire lui, non è venuto. Nella sua risposta ha fatto un bellissimo inciso sul fatto dell'utilizzo dei social network con più attenzione e senza fare polemiche, che era rivolta a lui, ma Massimo Biancalani non l'ha presa, perché il suo intento è quello di farsi pubblicità. L'intelligenza pistoiese, amici nell'intelligenza pistoiese, in queste persone politiche, politicanti che gli danno eco quando fa queste sparate. Andate a vedere, tempo addietro ne aveva fatta una su musulmani in chiesa, ne farà altre. Ti devo parlare nuovamente di Domenico Carlani, ve lo assicuro, avrà un'altra sparata prima o poi. Servono a niente, perché va bene, cosa va bene, succede? Se si va a sentire sì. parrocchiani, quelli che vivono sì, lì sì. sono contrari a questi ragazzi, che sono dei ragazzi bravissimi. Cioè, li ho visti, io ho seguito quando fanno il pane, quando fanno la pizza lì in parrocchia. E perché succede questo? Perché secondo me non è che questa gente ce l'ha con i migranti, ce l'ha con l'atteggiamento del prete, che malati, contribuisce all'incattivirsi, dici tu, all'avvelenarsi del clima in qualche modo, alla sì. Sia anche nella polemica del network. Letto sulla matta di Michele Serra, cioè quando c'era il dibattito in televisione tra la Santanchè e Biancalani, i migranti erano di arredamento. Se lui voleva, cioè l'impressione di mettere dei migranti di arredamento per fare una polemica politica, a me non sembra un buon servizio. Va bene, va bene, al va tema bene. Dell'immigrazione. Grazie, okay? Sandro, grazie, buona ciao. Serata. Ciao, titoli del TG3. A Parigi, vertice sui migranti, aiuti in Africa per limitare i flussi, apprezzamento per il codice italiano sulle ONG, in Libia hotspot internazionali, Gentiloni, finalmente soluzioni concrete. Orrore in Germania, un infermiere già condannato per 2 omicidi è sospettato di aver ucciso almeno 86 pazienti con un cocktail di farmaci in una clinica vicino Brema. Secondo l'Istat, mai così alta la fiducia dei consumatori e delle imprese negli ultimi 10 anni. Padoan, dati positivi, avanti con le misure per rendere strutturale la ripresa. Emergenza siccità a Roma, a giorni sarà ridotta di notte la pressione dell'acqua nelle case. Il ministro Lorenzin chiede immediata verifica dell'impatto sui servizi sanitari. Londra è polemica sul caso di una bimba cristiana in affido a una famiglia musulmana. L'avrebbero obbligata a togliersi la croce, a non mangiare carne di maiale e a imparare l'arabo. Si ammala di morbillo un'ostetrica dell'ospedale di Senigallia, non era vaccinata. Allontanati anche 6 operatori sanitari non immuni. Governo, nessuna proroga per certificazioni a scuola. Moreno, dalla provincia di Bologna, benvenuto. Sì, Maurizio, buonasera. Buonasera. Io volevo dire 2 cose. Sì. Allora, io faccio riferimento a quei 4 ragazzi che hanno picchiato in spiaggia... I 2 turisti polacchi e la trans. I 2 turisti polacchi, sì. Allora, cioè, qua è una sorta di gioco al nascondino. Tutti sanno che comunque sono 4... marocchini, però la prefettura non lo dice per non creare allarmismo. Ma lei lo sa perché lei lo sa perché è informato? Perché lo sanno tutti, perché qua lo sanno tutti in Romagna, quindi voglio dire, ma questo è il razzismo al contrario. Sì. Per non creare polemiche, per non creare qui. Poi le dico un'altra cosa, sì, se lei va di notte a Rimini, io capisco che c'è un sacco di turisti, eccetera, ma comunque ne vedrà poche di pattuglie, perché ci sono poche le pattuglie che sono in giro di notte. Ce ne sono poche, ce ne sono poche. Sì, e poi troppo poche, troppo poche, lei esatto. dice. Esatto, ma troppo poche sa perché? Perché il 90% sì. dei poliziotti sono impiegati in ufficio e il 10% sono impiegati nelle volanti. Questo vabbè, è il concetto. Adesso queste bisogna percentuali fuori... qua, Maureno, visto che parla di linguaggio e di uso appropriato del linguaggio, questa percentuale 90% e 10%, dove l'ha trovata? Qual è la fonte? Io non credo sia questa la percentuale, Lei va nelle questure e poi guardi un po' sì. quanta gente. Comunque io non voglio fare polemiche di quello. Volevo dire ma l'ha appena cosa... fatta però, l'ha appena fatta. Vabbè, comunque sì, riguardo, è un punto di vista, sì. Ma riguardo ai mediatori culturali. Ecco, il mediatore culturale, io ne conosco 2, ma cioè, secondo me loro non sanno quello che devono fare e non sanno assolutamente conciliare quelli che sono la mentalità di marocchini o comunque di essere comunitari nei rapporti con la nostra cultura, perché comunque sono così, insomma, sono schierati da una parte. Non voglio dire allora, altro. Spieghiamo un attimo, Moreno, un attimo, spieghiamo la notizia, che se uno non capisce nulla, mediatore culturale, l'ho detto io 50 minuti fa, quasi un'ora fa, la notizia è che, a proposito del fatto di cronaca di Rimini, c'è stato un mediatore culturale che ha postato sulla pagina del Resto del Carlino, della cronaca di questa notizia, una frase in cui diceva che lo stupro è peggio all'inizio, poi la donna si calma e diventa un rapporto normale. E questa cosa ovviamente è stata stigmatizzata, eccetera, eccetera. E lei di questo sta parlando, no? Io sto parlando di questo. Comunque i mediatori culturali, alcuni cioè, sono estremisti, ma sono estremisti, però sono contro la nostra civiltà, quindi non riusciranno mai a raggiungere lo scopo di integrarli, perché hanno una deformazione mentale. Beh, questa notizia le dà ragione, perché c'è da preoccuparsi, c'è qualcosa che non va sicuramente se uno che fa il mediatore culturale lavora al centro di smistamento dei migranti per la regione e invece di fare opera di alfabetizzazione delle leggi italiane o delle regole di vita in Italia, poi ha questo tipo di posizione. C'è sicuramente qualche cosa che non va. Su questo sono d'accordo con lei, Moreno. Grazie. Abbiamo il traffico? Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, adesso una breve storia distensiva, una breve storia che è bella perché è una di quelle che bisogna entrare nella testa del protagonista, no, di questa storia, perché è una persona testarda, cocciuta, che è riuscita là dove altri non erano riusciti o avevano mollato, e quindi ce l'avrà un segreto che lo ha reso così capace, così testardo anche. E allora, è con noi Carlo Baruffi, buonasera. Buonasera. È un imprenditore, non so che cosa ha fatto nella sua vita precedente, ma a un certo punto è diventato, possiamo dirlo, imprenditore agricolo? Non sono proprio un imprenditore agricolo. Un po' meno. Un po' meno. Come possiamo definirla? Un coltivatore, un appassionato di... Un appassionato. Però lei è riuscito a, contro tutti, contro il parere di tutti, a far crescere degli ulivi a nord in Valtellina, oltre 600 metri d'altezza, una cosa a poggire i denti. Bravo, perfettamente. Dove tutti avevano detto che non sarebbe stato possibile, era troppo freddo, eccetera eccetera. Sì. Lei invece caparbiamente ci tira fuori anche dell'olio che è molto buono. Esattamente. Un olio molto buono, profumato, che tutti non ci credevano, sì. Invece purtroppo. Complimenti. Purtroppo. Qual è stato il segreto? Cioè, come ha fatto lei caparbiamente ad andare avanti? Dicevano no, ma lascia perdere, ha fatto degli investimenti. Il segreto è un po' il clima, vedendo che stava cambiando anche il vino. Cioè, il riscaldamento, lei dice c'è il riscaldamento del clima. Questo sta dicendo. Più gradi il vino e si vedeva il clima che cambiava. Ho provato con le olive e vengono molto bene. Sperando sempre che non venga l'inverno. Perché se viene un inverno di quelli che venivano una volta lì in Valtellina, addio olive, purtroppo. Addio tutto. È una scommessa la sua, una scommessa precaria. Il rischio è questo. In equilibrio così. Però vedo che questi anni qui mi dà ragione il clima. Poi dopo speriamo sempre. Vabbè, lei ha anche una certa età, no? Per cui questa cosa ha cominciato a farla tardi. Come mai ha avuto questa idea? Cioè, così di punto in bianco. Lei prima faceva un altro lavoro. Nella vita si può cambiare, no? Faccio ancora anche adesso un altro lavoro. Così la pianta d'olio mi piace, ha il verde anche in inverno, si vede molto. E da lì ho cominciato a provare, mettendo 50 piante, vedendo che andavano adesso quante bene, ne ha? Poi, adesso quante ne ha? Adesso ne ho 380 piani. Vabbè, vedi. È un si può fare anche questo, è per questo sì, che noi sì, l'abbiamo sì. chiamata. Io la ringrazio e faccio in bocca grazie al lupo per il suo raccolto, per le olive, per gli ulivi lì in Valtellina. È una di quelle piccole storie che dimostrano che si può fare. E poi naturalmente col si può fare del sabato e della domenica ci ritroviamo a fine di questa settimana, la settimana prossima, perché poi dal lunedì prossimo torneremo tutti negli orari consueti. La Zanzara la sera e noi il weekend, il sabato e la domenica mattina con Carlo Gabardini. Sergio dalla provincia di Milano, vai. Sì. Eccolo qua. Sì, volevo solo dire questo. Sì. Secondo me magari una proposta che potrebbe anche rapacificare gli animi sull'accoglienza. Semplicemente dire chi è d'accordo, che quindi vuole accogliere all'inizio dell'anno sul proprio denuncia dei redditi, dice che farà in modo di badare a coprire tutte le spese in proporzione al suo reddito. E chi non è d'accordo invece non avrà nessun prelievo. Beh, così è facile. Se facessimo così su tutto, Sergio, però dici io sono contrario. Lo so, però il punto è che mi sembra che adesso siano abbastanza accesi gli animi. Quindi dico a un certo punto, vediamo un attimino chi se la sente e chi non se la sente. Io sono contrario a dare la casa popolare a quelli alti più di 1,80 m e quindi non partecipo, non la pago. Così. Però a quel punto continuare a dire chi è d'accordo continua a dire agli altri siete razzisti e viceversa, a un certo punto dicono cioè, vediamo un attimino chi vuole sobbarcarsi le spese e chi non vuole sobbarcarsi. Ma non si vediamo... può far così, scusi Sergio, questa può essere una provocazione, però questa è la morte di tutto, no? Cioè io dico a me quel tipo di spese che lo Stato fa non mi stanno bene, non partecipo, quindi non pago le tasse. Sì, ma questa qui mi sembra una cosa abbastanza forte, cominciare a vedere un attimino chi è d'accordo, ecco, io lo vedrei così. Va bene, vediamo, è una proposta suicida della collettività, per come la vedo io, perché dello Stato, di tutto, perché ognuno fa quello che gli pare, Sergio. Allora dico, questi che tiravano le bombole contro, voglio dire, sono dei semplici profughi che arrivano dall'Eritrea, va bene, ma uno che arriva così tranquillo non tira le bombole addosso, considerando che erano piene di gas. Magari poteva succedere un'esplosione e tutto. Ma uno può dire che non, che uno può dire che quelli andavano espulsi tutti, ma dire quello che ha detto lei, c'è un ascoltatore che sente welfare a simpatia, no? A me stanno tutti antipatici, quindi non pago niente per nessuno, non pago più niente a nessuno. Così è troppo facile, Sergio. Però allora continuano a dire chi non è d'accordo, siete razzisti, allora dico... Va bene, provate voi un attimino a sobbarcarsi tutte le spese, poi vediamo. Vabbè, ho capito, questa è la tua tesi, ho capito, va bene. Io penso che sia una tesi insostenibile, perché è la morte dello Stato, è la morte di tutto. Ognuno fa quello che gli pare, liberi tutti, no? Però, caro Sergio, libero di crederci. Michele da Milano. Ecco, sì, buonasera, ciao. Senti, io volevo dare un piccolo così parere per quanto riguarda questo sacerdote, che più che un sacerdote mi sembra un politico italiano già, come dire, in apprendistato. Ecco. Sì, perché? Ecco, sì, ma perché parla veramente più che come un sacerdote, penso che parli più come un politico. Ecco. Beh, in questo momento liste, è candidato, quindi sì. Sì, ho capito, liste, ecco, vabbè. Tra l'altro, vabbè, alla luce della telefonata che è stata fatta dal suo parrocchiano, le consiglio ovviamente di studiare bene la sua campagna elettorale. No, però un momento, sono due parrocchie diverse, Cioè abbiamo Don Massimo da un lato e il Don che avete sentito voi stasera è Don Franco da Ostia, un'altra storia. Il candidato è Don Franco, sì. Ecco, Don Franco, vabbè. Però io ecco, volevo dire una cosa, ma se veramente, come dire, la sua patria sono gli extracomunitari e gli immigrati, ma perché non se ne va in Africa, scusa? Cioè io non riesco a capire, veramente. Io penso che... la solidarietà che sta facendo il governo italiano la sta facendo sulla pelle degli italiani, e di questo ce ne accorgeremo forse non noi, ma probabilmente i nostri nipoti. Ecco. I nostri avi. Tanti... Però Michele, quando dici se ne vada in Africa, cosa, cioè, io lo posso prendere in due modi. Aspetta un attimo, io lo posso prendere in due modi. Come dire, la Chiesa si occupi, aiutiamoli a casa loro. Oppure, come dire, si levi dalle scatole. No, che si levi dalle scatole no. Io direi, ecco, che io sono per quanto riguarda l'accoglienza, ma l'accoglienza fatta nel modo giusto. A casa loro, l'accoglienza a casa loro, però anche, è un'altra cosa. Ma magari anche qui, però nei giusti Michele, numeri, solo per dirti però che quando, se vada in Africa non è si levi dalle scatole, ma è vada ad aiutare i poveri africani a casa loro, questo bisognerebbe ricordarsi che la Chiesa lo fa, cioè è uno dei pochi enti nel mondo mondo che fa cooperazione, ci sono prete missionari ovunque nel mondo, quindi... Ma lo so bene, ecco. Lo so bene, cioè questa è una battuta, però ecco, io penso che comunque l'accoglienza che noi stiamo facendo è totalmente sbagliata, perché è giusto accogliere, ma il numero giusto di persone. I nostri politici stanno facendo solidarietà sulla pelle degli italiani, okay. E di questo se ne accorgeranno i nostri nipoti. Va bene, grazie per già il detto, tempo grazie. Che mi hai dedicato. Davide, ciao, da Monza, per chiudere. Ciao Michele. Davide, sì. Vai. Sì, buonasera. Io francamente rimango completamente sorpreso dall'invito a sentire tutti gli interventi in una determinata direzione. Cioè, ma veramente siamo arrivati al punto che basta che un prete che porta degli immigrati in piscina o al mare debba creare scandalo? Cioè, parliamo tanto delle radici cristiane, delle nostre tradizioni, e questo crea scandalo? Ma se non lo fa un prete una cosa del genere, chi lo deve fare? Devo chiudere. Grazie Davide, buona serata. Grazie, ci sentiamo domani. Un ringraziamento da Alessandro Longoni, Riccardo Poli, Andrea Spenuso, con Roberta Frisani in regia. Ci risentiamo domani. Ciao, buona serata da Alessio Maurizi. Ciao.